Il libro del castello che aveva Zoisindo, sa che fima verrà lo fa. Che fima è che l'ha data qualche duni e dopo si è passata da una famiglia, dalla famiglia all'altra. Dopo Salo Malai è morto, come la nada, il libro noi la può cercare, gli altri se la fanno. Ah, è tutta la storia del castello. La storia, ma ci vorrebbe documentare comunque il castello adesso. Vuoi dire che è documenti che si può narrare, Andrio? Era andato a Castelcoira, nell'archivio dei tra. La roba del nostro castello è al Castelcoira. Al Castelcoira, e dopo sono poi gli anziani. Col gruppo anziani che si è organizzato una corriera, appena così, se non è il Castelcoira. E su tante armature, chi ne spiegava che questo era del Castel Beseno, questo è il Castel Beseno, questo è del Castel... Ah, li ha portati tutti via. L'animetria, disegni di non so, 500-600 anni fa, è dentro, ma te vedi che roba, timbri, carte... Al Castelcoira? Sì, ma l'archivio. L'archivio? Ah no, l'archivio non era la Saveda, no, ma... No, ma le strutture in ferro, le strutture che era, le armi... Sì, quello sì. Sì, tutta quella roba lì del castello. E sta portata via lei al Castelcoira. Il caminetto, questo. Anche il caminetto, questo. Chissà no, quanto che ne è che di chiaseria. E chissà robe... E lasciamo il cortevolo. Il folletto, l'uomo rosso. Una roba, il folletto rosso. Solo per spaventare. Uscita in conteo, altro in bocci, dopo forse perché non è più sincera male. Verità, ma mi si mi dicesse, guarda, ti do 100 milioni, sta su una notte a dormire, sola, neanche da morire, non sta via su, no. È vero adesso. E mi piace vederlo, ecco, vede quella piramide là, prima là, con quei corni. Lei era qua in mezzo, vedi che qui in mezzo adesso non la c'è più. Vedi che la via la c'è. Una precisa la che era qua, in mezzo. Ma noi che ha fatto l'aria rimodernata, però noi che ha fatto i corni precisi come che i merli. Noi che l'ha fatto i precisi, no? E lei era precisa di questa qua, e che l'ha fatta demolire. Perché era pericolante. La problemi che ha spendo io soldi Però come ripeto da allora ad ella cambia come da giorno alla notte, capisci? Se poi nasce anche a ballare una loro non potevi nasce a ballare, no? Perché che lasciati che si muoveva giù dopo le nasce a dopo cosa volte il castello dopo le sta un po' strassinato. Adesso è la papora, però prima era messo male, era proprio... C'è una sul cima che è una burra ancora, che una burra che va giù, prima Rio Cavallo, una bocca di cimento, la che è ancora, già struppata per il pericolo della gente, però andava giù fino a Rio Cavallo. Se parti lì non stai più su, no? La vista, altre l'hai vista? La che è ancora, è vera? L'ho vista l'anno scorso, o due anni fa, che sono stato su, e ho visto, dico, guarda però la coperta, però chi ste vai giù qua, dico, non ti vedi più su, no? Dopo, cosa che ti dica? Che ti dica che per esempio, che era quella torla a mezzo, chi l'ha battuta su? E adesso non l'ha fatta neanche su, che era la bellezza del castello. Era fatta proprio buona sua alta, a due frecce così, che erano due belle frecce, e la doveva demolire, insomma, perché era pericolante. Però dai, adesso gli ha organizzato pure il tuo castello, e adesso gli ha fatto forse bene. Gli avrà ancora da finire. No, poi dopo girare il castello, cosa vuoi? Una volta, le scalette le hai ancora come le era una volta. scalette che tenevi su, dentro un fondo che è una scaletta che va su, che fai la rotonda, la via, che ti vedi tu Cagliano, via la Carina, Roveredo, che ti vedi. Era bella su, per dire, a vedere. Dopo da scolare ne ha sempre portato su, a Cannalora ne porteva. Come adesso più ne porta su. Sì, allora ricordo che c'erano anche rotture, proprio muri in terra. Ma quel che mi piaceva di più era che si veniva qui verso alla fine del castello, c'era una scala che saliva a quel, come si può dire, alla torretta, sì. Si poteva vedere giù il paese, la vallata. Forse perché ero piccola, mi piaceva. Si vedeva la vallata questa e di Folgaria, no? Quello, mi piaceva di più quello. E ho anche delle foto che sono da piccola fotografata dentro il castello. Ah, e quel che mi resta impresso di lì. Allora, se andavi su con i scolari, e due dei nostri ragazzi è entrato in Tembus, e andati via, via, via, per lasciare il collegamento con Castelpietra. Dopo, quando è ritornato, in accontano, gli ha potuto andare fino in fondo, no? Era, saliva tutto sgrostato, non so, però era sta piccola galleria che porteva fino a Castelpietra. Che sarà ancora, non so. Mi ricordo proprio che questi due, gli andati per intanto pieni di tutti sporchi, pieni di terra, ricordo. Gli andati, voleva andare un po' avanti, ma non è stato possibile. Sì, sì, il Putelotti, con la scuola era nato. Mes paese, si vedeva. Fago vedere la foto che ho nella studio di Misobalda, quando che l'era. Allora, ma non che dentro tu no, perché è stato dal castello, ma tu non che dentro, mi pare che sotto castello non si vede. Da adesso, allora, no, un terzo l'era, manca di meno adesso. L'unica casa era la cantina e il santuario. La santuario, sì. Una casetta piccola dopo la cantina. Che dopo la Posta Vecchia, quando venivo in bicicletta dopo le dese, che sì, mettevo le dese alla Michelin, venivo in bicicletta quegli anni da trenare Vigneretta alla Michelin per 7-8 mesi. Dovevo dopo la guerra da andare a dormire da nessuna parte, perché il pensionato era dentro quelle più lontane di me. Se volevo rinunciare al posto, che era subito un'altra che in quegli anni del 46 dopo la guerra, basteva che ne sa perché, che era così che domandava lavoro, si era dentro dei più di 1000 operai, era dentro la Michelin. Beh, andare ad adattarsi, andare a venire in bicicletta, e zo dalla piazza del Don, perché non era mica la circonvallazione, che da tirare fuori la città, dovevi andare dalla piazza del Don, attraversare la ferrovia, zo Driola de Sotto, e andare a... Non aveva nemmeno coincidenza, non era coincidenza col treno, corriere non ve n'era qualche rara. Per mesi e mesi e mesi che l'ho fatta in bicicletta, sotto a tutte le intemperie. Partiva da chi? Da me casa a chi? Mi sono sposata, che ero qui, era 7 anni che ero qua, mi sono sposata, sono iniziato nel 45, mi sono sposata nel 50. Beh, no, alle 4 e mezza partiva mia e un'altra in bicicletta, e poi dopo le 2 veniva fuori dalla Michelin e tornava a casa. Ecco, alle 4 eravamo a casa. Se c'era qualche macchina, autotreno, l'era delle piante, le bore, sa? Le piante. Ecco, allora ne tacchevamo a sta macchina, una per banda, per non pedalare, far fatica, e ne tacchevamo. Ma le volte ne fila di quelle sonai, perché ha paura che ne fisse manca male, oltretutto. No, a Castello no. Era la contraerea però su al MAS. Era la contraerea su al MAS. Durante la guerra ero... Sì, al MAS era la contraerea. Mi resta impresso che ne portavano quel rifugio lì... Sotto l'acqua. Della campagna lì. Che lavoravano noi, che adesso è la... Sì. E quel bus lì sotto la strada lì, sotto la fratta di mia zia Catina. No. Che adesso la lavora in... Che è stall, sopra la strada, prima dell'acquedotto. Ah, lì, sì, in quel bugiardo, lì, quel lì, c'è lì, anche lì. Noi, scennai lì, ma noi scennai anche quando eravamo a Masera, ne venne dentro, c'è una fratta lì che è per una via presentera, quella fratta lì del tocca dentro una fontana che è più lunga di sta cosina anche, una fontana, ma una spina di acqua, ben fuori che basta. Ne venne dentro lì, che se veniva una bomba lì, ne coupeva, dopo ne venne manca chi, chi nel bus del lì, stai chi di casa, ne venne chi vedeste. Che mia sorella, mi ricordo, per salvarmela l'8 settembre, che resta un disastro l'8 settembre, era una popa così, una popa cosita, una Natalia. Me lo acciappata e ne va su de notte, col de luce si vedeva, col de lamp si vedeva, punta, guai in pizzare le candele a luce a pile, beh. Oh mamma, mamma, era il tipo che girava. Beh, me l'ha battuto dentro nel fil de fer delle pergole, l'ha battuto dentro i denti, l'ha battuto dentro tutti i denti tagli al labbro, la si ricorda ancora. L'ho portata al rifugio che era un disastro di sangue, unico me la passa. Per salvarmela, che me l'aveva portata dappertutto per salvarmi mia sorella. Anni magri comunque. Mia mamma, che quando gli ha fatto la casa, lei è stata su 3 mesi. Del 20 là, gli ha fatto la casa, chi l'ha fatta stare su scannuccia 3 mesi con 2 bestie. La veniva da 8 ore da mangiare, se la voleva mangiare, la veniva a beverare dentro al corso, era Vanassi, la veniva a beverare le bestie perché era vasca, sa. Forse pioveva di più di adesso, anche la vasca la fa per sta asciugare secondo bestia. 3 mesi l'ha fatta sta su secondo bestia mia mamma. Andiamo su, manca noi, andiamo su finì le scuole, su campivi, però ti fai lavorare. Allora sa che era tutta la linea da preparare, le stanghe, la roba, era da girarlo, e cargarlo. Da cargarlo, venire fuori a potere i fuochi col mulo, a tirare le slitte un po' dentro. Ma vieni a messi sotto, cara, da 9 anni mi ha messa sotto a lavorare, prima da putelotta a trasforzarsi dai castelli, a ristrellare, non che neve, non si che neve, appassino, se dormiva la sera su una sedia, se dormiva, perché da strac, che entrare a scuola, quel che si poteva andare, anche a scuola, perché alle volte teniva a casa da scuola per aiutarmi in campagna. Mia sorella me l'ho levata perché mia mamma era sempre di mio papà in campagna, sì, me l'ho tirata su me. Se no, di feste, quando torno in Mendrio. Niente il castello, no? A far feste. Io ho dunque 92 anni, compiuti ieri, e sono di Cagliano. Nata e vissuta a Cagliano. Sì, mi ricordo poco, mi ricordo del Castello Besino solamente durante la prima guerra mondiale che siamo sfollati lassù, questo ricordo, non saprei altro. La prima guerra mondiale eravamo subito sotto al castello sfollati, e invece la seconda guerra mondiale è dietro Besino. Ecco, lassù ero piccola, perciò ricordo poco la prima guerra mondiale. Invece sotto ero già sposata con figli, avevo 3 bambine, la terza era lei. E siamo rimasti lì dal 4 novembre del 44 fino all'estate del 45. Mio marito era in guerra. Cioè non in guerra, era prigioniero in Germania e noi si abitava lì. E venivamo ogni tanto a vedere Cagliano come si trovava, finché un giorno, il 3 gennaio, sono cadute le bombe 4 volte e una di queste ha fatto cadere anche questa casa. Ecco, ricordo tristi della guerra, ma ricordi che non si dimenticano mai. Poi siamo arrivati fino all'autunno, verso la fine dell'autunno siamo rimasti lì. E dopo siamo venuti a abitare nella casa di là, perché questa era caduta, di là invece era rimasta in piedi, però rovinata. abbiamo dovuto lavorare per metterla a posto finché siamo riusciti a scendere. E mio marito è ritornato dalla prigionia nel giugno del 45. E noi si viveva dietro Luseno nella casa di una signora che aveva anche lei il marito in prigionia, che ci comprendevamo, solo che lei figli non ne aveva, io invece ne avevo tre con la mamma, la mia madre. E siamo sempre andate d'accordo, per fortuna lei era molto comprensiva, molto buona. Castello, io da piccola lo ricordo poco, ricordo che andavamo ogni tanto su così per fare una passeggiata, ma ero piccola allora. E poi durante la guerra si abitava dietro Besino, ogni tanto si andava verso quelle parti così per passarsi il tempo. Eravamo un po' lontani noi perciò, che almeno il castello non è stato bombardato, almeno quello diremo, perché sennò lo sentivamo anche noi. E durante la guerra noi siamo rimasti lì e ogni tanto si andava nel Veronese a comprare la farina, il fabbisogno, perché qui non si trovava neanche la farina. E siccome il governo ci dava una scatoletta di sigarette per ogni persona, a pagamento però, e noi eravamo in cinque con le bambine, anche le bambine ne prendevano una ciascuno. Con queste sigarette le univamo, due o tre volte che le prendevamo le mettevamo via 12-15, no? E andavamo nel Veronese a cambiarle con la farina. Farina gialla o farina bianca, quello che si aveva bisogno. E non come adesso, però, che era movimento, sì. Sì, un paese, sì, è sempre stato un paese di foresti. Forse perché era un paese di passaggio, più comodo come movimento, perché allora hanno che era macchine come adesso, bisognava torre treno o così, no? Sì, un po' con Besenello, gli altri più che altro con Besenello. Come Volano e Numi non era così. Con Besenello gli andava d'accordo anche. Poi anche Caliano l'aveva anche tanto bisogno di Besenello di quel periodo della guerra. Era tante famiglie sfollate lassù. E allora è stato in un po' di amicizia. Nella filanda? Oh, credo tante che ne erano donne, certo, veniva da Besenello, da Olam, da Numi, ne era tante. Sì, molto Caliano, è sempre stato così. È sempre stato un paese un po' non unito, perché c'è stato tante famiglie forestiere che venivano a abitarlo, poi ne va via magari.